Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, continua il viaggio di Smart City nel mondo dell'intelligenza artificiale. Questa sera vogliamo occuparci di come trasformerà il mondo dello sport. E mai come in questo caso il futuro è già qui. Infatti da quest'anno sulle panchine del campionato di calcio di Serie A, oltre all'allenatore in carne ed ossa, potrà sedere un allenatore virtuale, il virtual coach. È una novità tutta italiana che nasce dalle competenze maturate al Politecnico di Milano dal gruppo guidato da Alfio Quarteroni, lo stesso che per esempio anni fa progettò lo scafo di Alinghi, permettendo al team svizzero di dominare per un po' di tempo, insomma, la Coppa America. Buonasera Quarteroni. Grazie, buonasera. Allora Quarteroni, è evidente come l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata, tanto per cominciare, per migliorare degli strumenti di gioco, dalla racchetta da tennis alla carrozzeria di un'auto, lo scafo di una barca. Ma la novità è un'altra ed è appena, dicevamo, scesa in campo. Allora le chiedo che cos'è Virtual Coach e cosa consente di fare a un allenatore durante una partita di Serie A. Il Football Virtual Coach è uno strumento sviluppato dalla società Matan Sport, quindi degli ingegneri dei matematici Matan Sport, ed è progettato come un supporto per l'occhio dell'allenatore. È costruito sulle sue specifiche esigenze personali e anche sulle sue convinzioni tattiche. Quindi, se vogliamo, è come se potessimo aggiungere un ulteriore componente molto speciale in più allo staff tecnico. Lo snodo essenziale di questa discussione è la parola big data e vorrei declinarla appunto in rapporto al calcio. No? Se pensiamo ad una partita del nostro campionato o della Premier League, per dire, o della Liga Spagnola, ogni ventesimo di secondo o trentesimo di secondo abbiamo la possibilità, grazie a delle speciali videocamere, che sono posizionati in punti strategici dello stadio, di reperire le coordinate della palla e quelle dei 22 giocatori in campo. Stiamo parlando di circa 5-10 milioni di dati posizionali nell'arco dei 90 minuti. Ora, lei capisce bene che è impossibile che l'occhio dell'allenatore, per quanto addestrato, riesca a decifrarli e a dominarli, tantomeno in tempo reale, quando gli servono naturalmente. Ecco, gli algoritmi dei big data servono proprio a questo, servono a monitorare questi dati, far emergere una quantità incredibile di indicatori, di valutazioni che siano utili a migliorare l'impatto dell'atleta o della squadra in generale o di un certo assetto di attacco, di difesa al risultato finale. Questo succede in tempo reale? Questo succede esattamente in tempo reale. Mi fa un esempio di una decisione che un allenatore potrebbe prendere in campo consultando questo strumento? Beh, io adesso, voglio dire, sto assolutamente immaginando, ma posso pensare. Che posso dire quello specifico giocatore deve giocare più avanti o più indietro, perfetto. Deve giocare più a supporto di quell'altro attaccante oppure viceversa, no? Ecco, queste indicazioni pratiche sull'assetto di gara e sull'assetto e sul comportamento di un giocatore o di gruppi di giocatori, queste sono appunto indicazioni che gli algoritmi di intelligenza artificiale permettono di formulare rapidamente con un linguaggio poi ovviamente, come dire, molto friendly, no? che finisce nelle disponibilità dell'allenatore o del suo staff e quindi che dà all'allenatore la possibilità di agire in tempi rapidissimi. Lei si rende conto che cosa succederà quando uno strumento simile finirà nelle mani dei commentatori sportivi? La speranza fondamentale di coscienza su questo, mi raccomando. La speranza è che ovviamente si ringradi di capire quali sono i vantaggi ma anche il perimetro e i limiti che tutti questi strumenti inevitabilmente hanno, no? Dopotutto stiamo parlando di allenatori che arrivano a dirigere squadre, ad allenare squadre di Serie A o della Premier League perché hanno, come dire, un curriculum che li legittima ad essere lì. Quindi è gente che ha fatto gavetta, che ha sviluppato un'intelligenza molto particolare in rapporto al tipo di gioco e che deve tener conto anche del giocatore, della condizione del giocatore, dell'atmosfera, della situazione, tutto quello che è sempre rigorosamente demandato a un'intelligenza umana, questo non deve essere mai dimenticato. Senta, in generale voi lavorate sull'applicazione di tecnologie e di tecniche di intelligenza artificiale anche per perfezionare il gesto atletico. Ci fa anche qui un esempio di come si può utilizzare l'intelligenza artificiale a questo fine? Beh, l'abbiamo applicata in particolare sempre nell'ambito della società Maten Sport al volley, anzi siamo partiti da lì perché abbiamo avuto la possibilità di discutere di queste tematiche con personaggi importanti del volley italiano, sì. Mauro Berruto e poi Davide Mazzanti e Andrea Giani. Lì si è lavorato in due ambiti, il primo è appunto quello del miglioramento del gesto tecnico. C'è uno strumento che si chiama Movida che permette effettivamente di capire tra tutte le possibili, diciamo ad esempio battute in salto, quella che massimizza l'efficacia. Quindi questo è proprio orientato allo specifico atleta e si vanno a monitorare attraverso gli algoritmi di video tracking o di video motion in assetto di allenamento naturalmente tutte, certo, le battute fatte e poi andare a individuare quella assolutamente ottimale. Quindi si valutano parametri come... Si valutano parametri come per esempio il punto in cui stacca per alzarsi a colpire e poi l'altezza a cui colpisce, l'inclinazione, quindi l'angolo di impatto della mano sulla palla, la forza impressa, la direzione angolare, tutte quantità numeriche che possono essere appunto determinate grazie a degli strumenti di imaging e che poi entrano dentro negli algoritmi di intelligenza artificiale e consentono poi di estrarre quelle che sono le combinazioni ottimali di tutti questi parametri. Quindi idealmente a questo punto uno può dire a quello specifico atleta: guarda che la tua battuta che produce il risultato più efficace è questa ed è in corrispondenza di questi parametri, quindi questa altezza, questo punto di stacco, eccetera eccetera. Grazie Alfio Quarteroni. Grazie a voi, arrivederci. Ci fermiamo qui non perché l'argomento sia esaurito. Per esempio, una delle più importanti applicazioni dell'intelligenza artificiale sarà legata alla possibilità di prevedere con una buona precisione il rischio di infortuni. Ci torneremo sopra, ma non stasera, tempo esaurito. E allora buona serata a tutti voi.